nove anni fa, nel 1992, ci fu, come qualcuno ricorda, il vertice sul clima a Rio de Janeiro. Il presidente degli Stati Uniti era George Bush, non W, il papà, diciamo, e chi suonava al controvertice? Manu Chao con la mano negra, colpo di scena, insieme a Yellow Biafra, che era il cantante dei Dead Kennedys. Cantarono una canzone dei Clash, I Fought the Law, cambiando il ritornello in cui inserirono le parole George Bush is chicken shit, cioè George Bush è una merda di pollo. Ora ci, con un sottile giro di parole, diciamo. Ora ci ritroviamo 10 anni dopo, con tutti i media sorpresi, chi sarà questo Manu Chao, chi sarà questa musica anti G8, eccetera, eccetera, con praticamente gli stessi cantanti, quasi con le stesse musiche e purtroppo, ahimè, anche quasi con lo stesso presidente degli Stati Uniti. Ma questo è un movimento fatto di pezzi molto molto diversi tra di loro, da tantissimi pezzi. Sono Giorgio, vengo da Genova, rientro alle ferie. Sono belga. My name is Agis Labesa. Cosa ritieni che si dovrebbe fare rispetto alle gabbie? Dovrebbero stare in silenzio lì, dire chi sei. 21 and I'm from Poland. Andrew mi è da risalire, parli in sacco. La mia resistenza penso non sarà violenta, perché qui siamo con i pacifici. Sono qui per, come persona individuale, quindi non ho dietro le spalle nessuno. Non è che è la base rivoluzionaria, però è una base che partecipare contro dei soprusi che si tenta di perpetrare ai danni dei più deboli. Buonasera Genova! Siete qui per vedere Manu Chao? Buonasera a tutti quanti! Lo conosce Manu Chao? Io no! Sono belle che tu non ne passa tanto, dovrebbero essercene più tanto. 1, 2, 3, 4. Ah, io spero di esserci, eh.